a questo cielo e non tenerlo incatenato, libera le braccia da catene e galera, libera questa terra per vincere il terrore, questo cuore aperto e va oltre le frontiere, spezza l'egoismo, l'angoscia e il silenzio. Cuore curdo, il tuo fuoco è sempre acceso, Eval, dammi la tua mano, Eval, e liberiamo il Kurdistan. Libera la gente dalla guerra, lo strapotere, libera le mani dalle armi e la vendetta, libera la vita dalle lacrime e dal dolore, sveglia in noi la forza grande del perdono, accendi la tua luce e fai rinascere la gioia. Cuore curdo, il tuo fuoco è sempre acceso, Eval, dammi la tua mano, Eval, e liberiamo il Kurdistan. Libera questo popolo dalle ingiustizie e rappresaglie, diamo la certezza di un cammino nella pace, noi diciamo basta alla violenza e alle barbarie, guardiamo la bellezza negli occhi dei bambini, in quello sguardo puro vedo un altro mondo. Cuore curdo, il tuo fuoco è sempre acceso, Eval, dammi la tua mano, Eval, e liberiamo il Kurdistan. Cuore curdo, il tuo fuoco è sempre acceso, Eval, dammi la tua mano, Eval, e liberiamo il Kurdistan. Io sarò con te sulla strada del coraggio, io sarò con te anche se tu sei lontano, io sarò con te per difendere i tuoi diritti, io sarò con te per combattere il male, hai donato la tua vita, hai pagato con il sangue. Cuore curdo, il tuo fuoco è sempre acceso, Eval, dammi la tua mano, Eval, e liberiamo il Kurdistan. Difendi la tua terra dal nemico e invasori, grida forte al mondo le ferite che porti dentro, noi siamo figli di storie senza confini, figli di storie tristi per un futuro di libertà, figli della lotta e profughi senza perché. Cuore curdo, il tuo fuoco è sempre acceso, Eval, dammi la tua mano, Eval, e liberiamo il Kurdistan. Disperatamente vuoi dignità, il tempo passa in fretta tra angoscia e rovine, i sogni non si perdono e il tuo viaggio a casa tua continua, non ti fermare, la speranza non può morire, io ti seguirò nella via della giustizia. Cuore curdo, il tuo fuoco è sempre acceso, Eval, dammi la tua mano, Eval, e liberiamo il Kurdistan. Cuore curdo, il tuo fuoco è sempre acceso, Eval, dammi la tua mano, Eval, e liberiamo il Kurdistan.